Salve, bentrovati, benvenuti a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Città Fujiko 103.1 FM. Un salotto convivio tra musicisti e addetti ai lavori e non solo, rivolto a soddisfare quelle che sono le curiosità che girano intorno al mondo della musica. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a condurre il nostro viaggio una graditissima e già nota voce di Radio Fujiko, Francesca Clementoni. Benvenuta a Suoni Paralleli, Francesca. Grazie Antonino, un saluto a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando. È una bella avventura questa, perché parte anche un esperimento dal mio punto di vista. Io ho sempre fatto informazione e oggi mi ritrovo nella co-conduzione, a collaborare con una trasmissione musicale. È davvero un piacere, Francesca, averti qua con noi, anche perché insomma nel tuo percorso hai avuto modo di occuparti in qualche maniera di suoni e di culture parallele. Il nostro sarà un programma che parlerà dei nuovi generi e del come si miscelano con i vecchi sound, un programma che parlerà dei processi creativi ma anche dei processi tecnici che portano alla realizzazione e alla stessa esistenza, diciamo, del pianeta musica. Un particolare occhio di riguardo lo avremo, diciamolo pure, per le nuove correnti della musica indipendente, non solo italiana, ma diciamo che non negheremo un confronto anche con quelle che sono le realtà delle major e delle loro nuove produzioni. Direi che con la conduzione di Antonino Barresi e di Francesca Clementoni avremo poi modo di ospitare e di interloquire con i nostri ospiti all'interno del nostro programma. Non ve li presento subito, perché partiamo invece dall'ascolto del nostro primo brano, un brano importante, un brano messaggio, un brano, diciamo, concept della nostra trasmissione. Ne parleremo poi dopo, intanto lo ascoltiamo. Questo è Fela Kuti, questa è Zombie. Unless you tell him to go, zombie. Zombie not go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie not go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie not go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie not go go unless you tell him to go. Zombie. Zombie no go stop unless you tell him to stop. Zombie. Zombie no go turn unless you tell him to turn. Zombie. Zombie no go think unless you tell him to think. Zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Zombie, oh zombie. Tell him to go straight. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go kill. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Tell him to go quench. Na joro jara joro. No break, no jam, no sense. Na joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Put up all the verse. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Put up all the verse. Joro jara joro. Go and die. Joro jara joro. Go and quench. Joro jara joro. Go and kill. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro, zombie when I want way. Joro jara joro. Attention, zombie. Quick march, slow march, zombie. Left on, right zombie. On, above on, double on, zombie. Salute, open your hat, zombie. Stand at ease, fall in, zombie. Fall out, fall down, zombie. Dead ready. Attention, zombie. Quick march, slow march, zombie. Left on, right zombie. On, about on, double up, zombie. Salute, open your hand, zombie. Stand at ease, fall in, zombie. Fall out. E quindi zombie, dicevamo, l'invito di Fela Kuti a svegliarsi dal torpore, a vivere dei propri diritti umani, un messaggio di rivoluzione e al tempo stesso una bandiera dell'incontro e del dialogo tra quelli che sono i tanti popoli che vivono una condizione di disagio, questa condizione purtroppo comune. Mi viene in mente un altro signore della musica che ha rappresentato gli umani come zombie, un signor che si chiamava Michael Jackson. Un illustre sconosciuto di nome Michael Jackson, esatto, anche Jackson riprese un po' il discorso degli zombie. È una citazione proprio che fa capire come quando si parli di zombie, spesso e volentieri nella cultura anche occidentale, non si parli necessariamente di guerre, ma anche delle strutture che chiudono le menti di uomini, donne, chiaramente anche di artisti in questo caso, in alcune circoscrizioni che spesso vanno scavalcate. L'invito è quello di Fela Kuti, l'invito è quello che fu di Michael Jackson a non essere zombie, è un po' esteso, diciamo, un po' a tutti gli artisti dal nostro punto di vista. E brani come Zombie sono proprio quei brani che insieme ad artisti come Fela Kuti hanno contribuito a creare quello che normalmente viene definito il grandissimo mondo e panorama della world music mondiale, che altro non è che spesso un dialogo ed un ascolto tra tante culture musicali umane diverse tra di loro. Io, Francesca, coinvolgerei nella nostra discussione un po' quelli che poi diventeranno i nostri interlocutori oggi, i nostri ospiti della puntata, che, come avremo modo di scoprire durante i nostri interventi anche nella nostra puntata e nelle puntate future, sono ospiti che danno dei punti di vista all'interno della nostra intervista dai loro rispettivi settori. Chiaramente possono essere musicisti, artisti, addetti ai lavori o quant'altro, ma non ci limiteremo a questo e insomma partiremo con diversi, tanti ospiti graditi come quelli di questa puntata che stiamo per presentare, per poi arrivare a tecnici, tour manager, proprietari di locali, perché no, oltre che musicisti e artisti a tutto tondo. Esattamente il discorso del non voler essere zombie, cerchiamo anche noi nel nostro piccolo, ascoltando più punti di vista e più voci. Di solito in una trasmissione musicale si ascoltano le voci del musicista, della band, del disco che sta per uscire, eccetera eccetera. In questo caso noi abbiamo voluto proporre qualcosa di differente. Esattamente, quindi ospiti e benvenuti a Suoni Paralleli il maestro Felice Del Gaudio, artista che proviene dal panorama del jazz, compositore e collaboratore di diversi artisti sia del panorama jazz nazionale e internazionale che diversi artisti pop italiani come Gualazzi, Mango, Antonacci, ne potremmo citare altri ma non lo facciamo, e il nostro amico carissimo e DJ producer made in Bologna, DJ Farrapo. Diciamo benvenuti ragazzi, è un grande onore per noi avervi a suoni paralleli. E che dire, Francesca, come affrontiamo il nostro primo Interplay con i nostri ospiti? Gli facciamo una secca domanda per parlare subito di quello che... Io direi di sì, hai lanciato questo brano e credo che tu non l'abbia fatto a caso, perché vuoi sollecitare i nostri interlocutori e quindi procediamo. Assolutamente, io mi fa molta curiosità anzitutto fargli anche delle domande ai nostri artisti ospiti di oggi, e partirei con Felice. Felice, io ti volevo chiedere una cosa molto importante a proposito di quello che abbiamo detto tra il dialogo e il mix tra i generi musicali e le culture. Quanto pensi che sia importante il dialogo tra le culture, le contaminazioni e quindi la miscela dei generi diversi nella musica del 2017, quella che sta per essere composta nel 2017? Innanzitutto grazie dell'invito, e che ho accettato con grande piacere per essere qui con voi tutti, è veramente una bella gioia. E tocchiamo un tema che secondo me è un po' la caratteristica di tutti gli artisti, ovvero possiamo allargare a tutti i campi dell'arte. Che senso ha fare quello che tu hai scelto di fare per viverci in quest'epoca? È una cosa che io mi chiedo un giorno sì e un giorno no. E avendo bazzicato tantissimi generi musicali, posso dire solo che la fortuna più grande che ognuno di noi possa avere è la curiosità. Il fatto che tu possa andare ad una mostra, per esempio, ispirarti e il giorno dopo creare qualcosa sulla sensazione che ti ha dato una mostra, come c'è stato qualche giorno questa arte fiera a Bologna. Il giorno dopo ero già lì con la chitarra in mano che mi venivano delle idee su un'opera che avevo visto. E quindi la curiosità mi ha spinto poi a girare il mondo, cosa che ho fatto tantissime volte, ho girato. E sono in ogni posto dove sono andato, la mia esperienza rispetto a questa tua domanda è che mi sono portato sempre dischi da quei luoghi e strumenti musicali che ho adoperato spessissimo nelle mie produzioni. Questa cosa mi fa stare bene, nel senso che se c'è da fare delle cose, un'aggiunta di questo strumento in un disco, per esempio, che si chiama Lucania, ho aggiunto un brano, un strumento che si chiama Rabab, che un mio amico che all'epoca degli Afghanistan, è uno strumento afghano, i talebani stavano distruggendo, non so se vi ricordate gli strumenti, riuscì ad afferrare, a recuperare, a prendere, a comprare una serie di strumenti che poi venendo a Bologna mi ha chiamato, mi ha detto guarda, avrei questa cosa, io appena l'ho visto mi sono innamorato. Oppure quando sono andato in Marocco ho comprato il gbir, e perché mi ricorda molto il basso elettrico, fa un suono molto... Quindi diciamo, questa è la mia curiosità rispetto, è la mia risposta rispetto a quella tua domanda di prima. Come cambia la tua curiosità, cioè come si modella, quando guardi le cose dal punto di vista del musicista o dal punto di vista del compositore? Se cambia, ovviamente. Dal punto di vista del musicista comprende il fatto che tu sia compositore. Quindi per me esiste lo strumentista, colui che si prepara sullo strumento e ci ha passato delle grandi ore nella sua vita. Io quando avevo 15, 16, 17 anni studiavo 2-3 ore tutti i giorni le scale, cercavo di capire come fare la tecnica, cercavo di crescere, perché mi aveva detto il maestro dell'epoca, fortunatissimo me, che se non mettevo a posto alcune lacune che avevo sarei rimasto un buon dilettante. E quindi questa cosa fa parte dello studio, prendere una partitura, leggerla, archetto, contrabbasso, pizzicato, studiare la musica degli anni 30, questo fa parte dell'assorbimento, come se quando uno legge un libro. Certo. Poi dopodiché chiudi. In un senso più ampio si può dire che la musica è assorbimento da parte, diciamo, interna, quindi assorbire te stesso, quindi un dialogo con te è la parte tua più intima, ma allo stesso tempo può diventare un dialogo anche con l'esterno, quindi con te e tutto il mondo che ti circonda, con te e tutti gli strumenti che possono far parte del tuo stesso linguaggio. Quindi. Assolutamente sì. E poi il fatto che dicevi tu, e chiudo, concludo, è come interagire con gli altri che non siano legati, se vuoi, al tuo mondo. Questa è una grande curiosità. Io non so, a casa mia per vocazione, siccome i miei già da piccolo ospitavano parenti, ospiti, amici, gente sconosciuta, nella mia casa di Bologna c'è passato di tutto, per cui il batterista africano che non sapeva dove dormire e che aveva scelto Bologna per stare qualche mese è stato da me, oppure il percussionista senegalese. Ma questo non significa solo, diciamo, beneficenza o altro, significa proprio assorbire. Io ho rubato delle idee. Certo, ed è proprio quello che adesso vogliamo andare a fare, vogliamo fare ascoltare ai nostri ai nostri amici sulle frequenze di Radio Città Fucico. È un po' quella che è l'interpretazione di Felice Del Gaudio in Uptown, di tutte quelle che sono le influenze e i dialoghi. Fa parte del disco Home 2013. Questa è Uptown di Felice Del Gaudio. Uptown, tratto dal disco Home 2013 di Felice Del Gaudio, è quello che abbiamo appena ascoltato e quello di cui parlavamo a proposito delle nostre influenze del dialogo tra generi musicali diversi, qui a Suoni Paralleli, qui a Radio Città Fucico sul 103.1 FM. Volevo continuare a parlare con uno dei nostri ospiti e proprio continuare a proporre lo stesso argomento. Io volevo chiedere anche a Giorgio Farrapo, ospite graditissimo qui a Suoni Paralleli, la stessa cosa che poco prima chiedevo a Felice Del Gaudio, vale a dire: quanto pensi che sia importante il dialogo tra le culture, quanto pensi che siano importanti le contaminazioni e quindi la miscela dei generi musicali diversi all'interno della musica che stiamo per creare, per comporre nel 2017? Lo chiedo a te perché da producer e da compositore quale sei avrai sicuramente un po', diciamo, ricercato, come di tuo tipico input, una risposta a questa domanda. Assolutamente fondamentale. L'evoluzione, l'innovazione nella musica non può nascere se non altro che dalla contaminazione di diversi stili, di diverse culture, e spesso i migliori, più grandi musicisti della storia della storia umana, insomma, erano proprio quelli che avevano una grande conoscenza musicale di diversi stili, e proprio riuscendo a incrociarli, a mischiarli, che portavano novità ed evoluzione nella musica. Tu credi che però effettivamente questa cosa sia ancora una legge rispettata, visto che abbiamo dei grandissimi esempi? In realtà qualche esempio nel passato poi è stato riportato anche nel presente di grandi compositori che hanno usato il mix di culture e linguaggi, ma credi che sia davvero importante in quello che poi ad esempio è la cultura pop? Ad esempio un DJ nel momento in cui un producer va a sviluppare un nuovo brano, una nuova produzione, è importantissimo. Pensa al mix della cultura o pensa più a quello che poi è il prodotto, quello che poi potrebbe vendersi ad esempio? Ma pensa ad entrambi, di sicuro anche nell'ambito pop la novità è fondamentale, perché nonostante la musica pop sia assolutamente una cosa stantia con dei cliché fastidiosi, insomma, e l'evoluzione, il cambiamento dei suoni, il mischiare diversi stili musicali è quello che alla fine dà quel qualcosa in più ad un brano musicale. Sono completamente d'accordo. Io volevo dare, infatti, a tal proposito, volevo far ascoltare uno dei producer che più sta utilizzando l'influenza di generi e culture musicali all'interno delle sue produzioni. È un DJ che alle scene passa con il nome di Grammatic. Questo brano che andiamo ad ascoltare si intitola Satoshi Nakamoto, è tratto da Epitaph, un gran disco. Questa la volevo mettere, così andiamo ad approfondire poi il nostro discorso sulla produzione. I'm buying whips with cryptocurrency right now. Tyler Durden, make him holler murder. Take him to the highest point of the earth, no need to follow further. The shit is universal, no time to do rehearsal. I never take a break, that shit is too commercial. I wasn't raised different, I was made different. Flow don't fuck around like it was raised Christian. Antisocial with these kids, we don't play with them. We just keep a small circle and we stay lifted. I need Monopoly bread. Told her if it ain't sex, then it gotta be head. So you got some candles, I prefer the sloppy instead. Do my own thing and they prefer to copy instead. The money got them in a frenzy, probably wanna envy. Glass half full, but the bottle's left empty. Baby, I'm a gentleman, but I don't do it gently. Backwoods with the henny, rap good, never trendy. That kush got plenty, I be off of the feelings. Getting tuned with the rhythm, now I'm leaving the room. Let the mood reawaken like I'm out of the tombs. Each room's keep moon, going out with a boom. For the gold, I be walking every road on the map. Get a vibe low key and the flow is relaxed. But once the smoke is in the air and we pouring the jack, we like singers, turn actors, we don't know how to act. Switch it up, let your bitch pop a bean in a hat. Got a queen hitting ass, sipping lean in the back. Bank robbery, we going and we leave with the cash. We just getting what we need, see no reason to ask. Cause drugs unlock doors in my mind where I never go. Learning to acknowledge while accepting what I'll never know. Living in the moment while we can, cause you never know. Just take the energy you got, baby, and let it go. Came to spit a sonnet, sonically colder than comets. Surf a rocket to the moon and can't nobody stop it. I'm hyperbolic, my words curve extra wavy. Yo, paint a map of the sky, shit, you could call me Haley. Before that cold shit, just a cloud of smoke. When you realize you don't know shit. Ma abbiamo parlato con il nostro ospite producer, però io avrei una curiosità innanzitutto, anche perché in questa trasmissione approfondiamo attraverso i diversi punti di vista e non si può dare sempre tutto per scontato. Ma cosa fa il producer? Tradotto in italiano, il produttore un tempo era colui che cacciava i soldi. E diciamo che nel mio caso è assolutamente impossibile. Diciamo che in tutti i casi, perché ultimamente il termine producer ormai significa tante cose diverse. Effettivamente il producer comprende un sacco di qualifiche, devi riuscire a fare un sacco di cose. E un producer può essere un produttore, cioè un compositore, un arrangiatore, un beatmaker, un ingegnere del suono. Diciamo, queste sono un po' tutte le cose che ho dovuto imparare per diventare un producer. È assolutamente uno di quei settori in cui poi, tra l'altro, mi sembra di capire la terminologia è in continuo divenire. A parte il producer, il beatmaker, ci sono tante figure che continuamente abbondano, insomma, soprattutto con l'utilizzo delle macchine, dell'elettronica, mi sembra di capire, vero? Sì, spesso un buon producer deve essere anche un buon musicista, è fondamentale per che un producer abbia un po' di nozione di musica. Certo, quindi diciamo che oltre ad essere contaminato e ad miscelare e mixare i vari generi che ascolta dall'esterno, diciamo che una piccola parte di preparazione anche che proviene dall'interno non guasta, Giorgio Farrapo, giusto? È questo, diciamo, che ci stai dicendo? Diciamo, questo è quello che spesso fa la differenza. Ti posso chiedere qual è lo strumento da cui sei partito tu? Io ho cominciato suonando il pianoforte, poi esatto, dopo immaginavo ho avuto... che fossi un pianista, infatti, ho hai l'anima del compositore. Ho avuto una grande passione per l'organo Hammond. Mi sono anche laureato scrivendo una tesi di laurea sulla storia dell'organo Hammond e su tutti i generi relativi. Fantastico, io direi di farla ascoltare un po' al nostro pubblico, una produzione di Farrapo e Yanez, questa è Frango Assado. Esquece a gallina do terreiro. É frango assado e de qualquer maneira eu tenho que encontrar um trem que faça cococó. Dinheiro tá gastado em qualquer besteira. Se eu não encontrar esse frango, eu levo surra de cipó. Pachungue, pachungo, pachungue, pachungo. Pachungue, pachungo, pachungue, pachungo. Pachungue, pachungo, pachungue, pachungo. Pachungue, pachungo. Pachungueira. Domingo é frango assado e de qualquer maneira eu tenho que encontrar um trem que faça cococó. Dinheiro tá gastado em qualquer besteira. Se eu não encontrar esse frango, eu levo surra de cipó. Pachungue, pachungo, pachungue, pachungo. Pachungue, pachungo, pachungue, pachungo. Pachungue, pachungo, pachungue, pachungo. Pachungue, pachungo. Pachungue. Manhã tá esperando na beira da estrada. Na rádio tá tocando aquele forró. Panela tá no fogo esquentando água. Se vacilar o gato. E ancora ben trovati a Suoni Paralleli, un programma di approfondimento sulla musica a 360 gradi in onda sulle frequenze di Radio Fujiko 103.1 FM. Chi vi parla è Antonino Barresi e con me a condurre Miss Francesca Clementoni. Ancora benvenuta Francesca in questa avventura viaggio di Suoni Paralleli. Riprendiamo il nostro discorso affrontato con i nostri ospiti. Esattamente, direi li vuoi ripresentare tu, madame, per... Felice del Gaudio e Giorgio Farrapo. Yes, grazie, ciao. Ancora benvenuti ragazzi, il nostro discorso verteva su tanti argomenti, parlavamo dei mix, parlavamo insomma dei nostri punti di vista dai musicisti che provengono dal mondo del jazz come Felice del Gaudio, ai producer, DJ che sperimentatori come Giorgio Farrapo che si occupa diciamo della produzione in senso più ampio. Io direi che tante sono le culture che stiamo andando ad ascoltare, abbiamo cominciato con Paracuti, stiamo continuando ad ascoltare diversi generi di produzioni, da Grammatica allo stesso DJ Farrapo, allo stesso Felice del Gaudio. Volevo riprendere un po' il discorso del mix delle culture proponendo uno degli ascolti più simpatici che mi è capitato nell'ultimo periodo, e lui è un artista soul dub che ha anche delle venature tipicamente reggae, proveniente dalla Nuova Zelanda stavolta, ed è passato ultimamente da Bologna per un live che ho avuto il piacere di vedere e che veramente ho ritenuto molto interessante. Questo è Fat Freddy's Drop, il brano si intitola Blackbird. Thank you. Romani. And as the days go by, I see them multiply. I can't sleep, 'cause I know they'll be watching me, descending on the breeze. These shadows keep falling down on me. There's a blackbird in my garden. Blackbird, Fat Freddy's Drop, uno degli artisti, diciamo, più particolari nel panorama del soul che ci è capitato di ascoltare ultimamente qui a Bologna. Vi ancora benvenuti su Suoni Paralleli. Stavamo facendo un discorso molto molto ampio con i nostri ospiti DJ Farrapo e il maestro Felice Del Gaudio. Riguardava in senso più ampio possibile quello che era la miscela dei suoni, il mix di culture e generi musicali. Io spesso mi chiedo e vi faccio questa domanda a entrambi, volevo riprendere il nostro dialogo partendo da una domanda: cosa state ascoltando? Cioè, cosa ascolta ad esempio Giorgio Farrapo, che stasera ad esempio deve andare a suonare, a passare dischi nel locale X di Berlino, o quanto di Bologna, o ad esempio altrove, o quanto a casa tua, che magari ogni tanto qualche disco lo passi anche per gusto personale. Cosa ascolti nel tuo ambiente intimo? Ecco, hai toccato veramente il fulcro. Questa è una domanda che in alcuni periodi mi può mettere anche in crisi, Nel senso che uno passa come produttore magari 10 ore in studio a lavorare un pezzo, poi dopo le 10 ore ha bisogno di riposare le orecchie e non ascolta. Oppure come DJ spesso io devo preparare delle serate di determinati generi e mi capita magari di ascoltare per lavoro. Certo. E quindi spesso ci sono dei periodi in cui uno non ha veramente tempo o possibilità per ascoltare anche le cose un po' quello che vuole, quello che vorrebbe che ricercare, più ti fanno godere, insomma. Certamente, certamente. Felice invece, il maestro del Gaudio, cosa ascoltiamo ultimamente per ispirazione? Ma io ultimamente sono affascinato in macchina a casa, ascolto molto Avishai Cohen, questo contrabbassista israeliano che ha vissuto a New York, ha suonato col mondo, adesso è tornato in Israele col suo trio. E quella sonorità di questo trio, musica nuova, assolutamente nuova, contemporanea, diciamo, mai ascoltata prima, quindi per me è una novità. E poi sul basso elettrico, rimanendo legati a quelli che sono i miei strumenti, quello che mi danno da lavorare, Richard Bonat oggi come oggi penso sia eccezionale, sì, uno dei più grandi bassisti e compositori. Ne parlavo oggi con un amico, ma musicista, compositore, lui scrive per Quintetto d'Archi, scrive per pianoforte, va alla batteria e suona con Pat Metheny che lo tiene alla chitarra, dopodiché alla fine del suo concerto gli fa fare un assolo di basso, e quindi diciamo la completezza assoluta di Richard Bonat. Interessante, io in realtà vi facevo un po' questa domanda anche un po' per capire quello che è una delle correnti di generi musicali europei su cui stiamo girando ultimamente, un genere che è l'electro swing, molto utilizzato, e utilizza appunto quelle che sono le influenze tipiche del jazz, in questo caso Manouche per quello che riguarda la Francia, e le unisce però a quelle che invece sono le ultime sonorità che fanno parte dell'electro, quindi dell'house nel senso più ampio del termine possibile, ma anche con sonorità che spaziano e arrivano anche fino all'hip hop. Vi chiedevo questo proprio per lanciare il nostro prossimo ascolto. Quello che andiamo ad ascoltare è un incontro fra quello che è il panorama jazz e i nuovi ascolti del jazz, e quello che è un incontro invece che può riguardare la musica elettronica, il beat del futuro. Questo è un brano che è uscito qualche anno fa dei Caravan Palace, anche loro da poco passati a Bologna. La facciamo ascoltare, Franci, poi ci racconti del concerto dei Caravan Palace che ci hanno fatto sapere di averti vista da quelle parti, tra di loro, insomma, eri a vederli. Adesso ci dirai come ti è sembrata questa Clash che noi andiamo ad ascoltare, questa Caravan Palace e Clash. Getting the cool thing of the happy, they went quiet. Oh, yeah. That's what I'm talking about, the power of the gospel. Everybody. Getting the cool thing of the happy, they went quiet. Why don't we dopo questa clash dei nostri Caravan Palace, dicevamo, Francesca, abbiamo da poco visto i Caravan Palace qui a Bologna in concerto, vero? Come sì. Ti sono sembrati? Ti sono piaciuti? Ma guarda, un concerto strepitoso, allegro, divertente, però non solo, perché comunque c'era dell'ottima musica, dell'ottimo ensemble, stanno insieme in maniera fantastica, quindi che dire. C'è una band veramente molto c'eravamo un po' tutti a questo concerto. C'eri anche indubbiamente te, si vede che sono belli rodati, hanno ormai ottimizzato uno show veramente coinvolgente. Tu, Giorgio, mi dicevi che, se non sbaglio, nella parte finale del concerto, mentre tutti eravamo già nel post fase drink, tu stavi anche avendo modo di parlare con qualcuno dei Caravan Palace al concerto, se non mi ricordo male, vero? Alla fine ho fatto due chiacchiere con il producer, che erano in giro loro, vero? Cosa dicevano? Dovevano partire già la notte stessa per una nuova data, se non sbaglio. Esattamente. Tipo il retroscena della vita del musicista. Anche Caravan Palace hanno ammesso che erano già in ripartenza, non dormivano nemmeno a Bologna. Infatti il concerto è finito prestissimo. Sì, sì, veramente tragicamente. Troppo presto. È stato veramente uno dei migliori concerti. Tra l'altro, uno dei concerti in cui la qualità della proposta, in questo caso della band, rispecchiava un po' anche la riuscita, perché di pubblico ce n'era abbastanza. I Caravan Palace hanno fatto veramente uno show degno di un livello molto molto alto, e cosa che ultimamente non capita. Infatti dicevamo durante il fuori onda con il maestro Del Gaudio che può capitare purtroppo ultimamente invece di trovarsi in una condizione in cui ad un concerto di un livello qualitativo molto alto possa capitare invece una carenza di pubblico. Questa è un po' una situazione che può essere un segnale, può essere interpretabile insomma in tanti modi. Non so, segnala secondo te, Felice Del Gaudio, una parte, diciamo, un malessere dell'ascolto da parte degli ascoltatori di musica in Italia? Ma non solo di musica, il fatto che una volta la forbice era meno accentuata, adesso si divide tra i giovanissimi, i giovani, e poi ci sono gli anziani, i grandi, e, voglio dire, manca una fascia d'età dei 30, i 40, i 50 che si sono racchiusi nel proprio intimo, e quindi si preferisce, casomai, se devi uscire, andare piuttosto al cinema o una pizza anziché dedicarti a un concerto. Perché parliamoci chiaro, andare a sentire un concerto di musica, come ho fatto l'altra sera, musica contemporanea, richiede uno sforzo. E quindi io, da musicista, mi sono divertito, ho capito, ho cercato di entrare nel loro viaggio, però posso capire che la proposta... D'altronde, che significa? Siamo nel 2017, se queste cose non si fanno adesso, anche il posto era carino, la location, il Teatro degli Alemanni, che c'è un ragazzo, Giuseppe, che ce la mette tutta. E diciamo che prima si faceva più sforzo, cioè prima c'era la volontà di uscire, fino a 10 anni fa secondo me, e di andare a incuriosirsi nei vari posti e vedere cosa succedeva, per esempio a Bologna. Adesso vedi molte più luci accese nelle case. Io sono d'accordo, però vorrei dare lanciare un segnale di speranza, esatto, esattamente, ovvero a Budrio subito dopo Natale, dal 28 al 30 di dicembre, c'è stato Dialoghi sul comporre. È un momento in cui vengono richiamati a casa, sono già a casa per le vacanze, ma vengono richiamati nel paesello compositori di contemporanea sparsi per l'Europa, perché qua non riescono a lavorare, quindi vanno a cercare miglior fortuna. E devo dire che le Torri dell'Acqua, questo spazio che ospita i concerti, il teatro consorziale di Budrio, erano pieni ai concerti. È stato proiettato al teatro l'opera di Filidei, il Giordano Bruno, che oltretutto è stata valutata anche una delle migliori opere dell'anno scorso di musica contemporanea del 2016, e il teatro era quasi pieno. Erano addetti ai lavori? Può darsi. Erano magari studenti di conservatorio, però secondo me la verticalità nella proposta può essere lo scarto per il futuro. Chiudo dicendo che quest'anno Musica Insieme, che fa musica da camera, festeggia i 30 anni. E alla presentazione del primo concerto... E gli faremo gli auguri più volte. Esatto. Alla presentazione del primo concerto la direttrice musicale ha sottolineato come al primo concerto di Musica Insieme 30 anni fa c'erano 20 o 30 persone. Adesso riempiono l'auditorium Manzoni, quindi è anche cultura dell'ascolto che va coltivata. Secondo me si è abbandonato il coltivare questa cultura dell'ascolto. E poi la verticalità, ovvero proporre per nicchie di interesse che possono diventare sempre più grandi, queste nicchie.